Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi ragazzi la televisione la guardano sempre meno, guardano lo smartphone, il tablet e quindi hanno a disposizione una quantità infinita di contenuti video, film, concerti, serie televisive, eventi sportivi, hanno il mondo a disposizione e quindi in qualche modo sono, come dire, liberi dalla variabile del tempo. Chiunque può guardare quello che gli interessa in qualsiasi momento della giornata e noi adesso invece risaliamo agli albori della storia della televisione, con le serate degli italiani che erano condizionate dalla programmazione televisiva, dal film del lunedì, il giovedì sera che era la serata di Mike Buongiorno, del quiz, del rischia tutto, con la domenica che c'era lo sceneggiato ed era un'Italia che guardava i fratelli Karamazov la domenica, questo per dirvi insomma di quanto sia precipitato il livello di questo paese. E poi c'era il sabato sera, c'era il varietà. Ecco, noi raccontiamo la storia del primo grande personaggio della storia della televisione italiana, il primo intrattenitore, presentatore dello show del sabato sera, uomo capace di incollare anche, chiaramente grazie a circostanze fortuite di quegli anni, a incollare davanti allo schermo milioni di persone, un uomo dal grande talento, scomparso prematuramente proprio nel momento di suo maggior successo. È un uomo che ha segnato un momento di grande emozione sia nella vita ma anche nella sua morte, grande emozione in tutto il paese, un paese che veniva raggiunto ogni sabato sera da questo sorriso elegante e educato, veniva raggiunto da Mario Riva. Risaliamo agli inizi del Novecento con un giovane musicista diplomato al Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, si chiama Giuseppe Bonavolontà, professore di corno, trova un impiego all'Accademia di Santa Cecilia di Roma e trova anche l'amore, Teresina Chinzari, originaria di Antrodoco, provincia di Rieti. Bene, i due si sposano e il 26 gennaio 1913 nasce il loro figlio, si chiama Mario Bonavolontà, è un nome impegnativo che qualche anno più tardi lui cambierà quando decide che vuole sfondare nel mondo dello spettacolo e insomma Bonavolontà un cognome un po' ingombrante e deve scegliersi un cognome più corto, così Mario Bonavolontà lascia il posto a Mario Riva. In casa si respira quell'aria di palcoscenico perché il padre è autore di canzoni oltre che musicista, canzoni che saranno interpretate anche da Claudio Villa, da Vittorio De Sica, da Luciano Taioli e poi c'è Mario che è il primo di quattro figli che, a parte uno che diventerà dentista, sono destinati tutti a una carriera musicale. Il comandante dell'Albatros, l'occhio incollato al periscopio, finalmente osservò la preda. Pronti uno? Pronti due? Pronti due? Fuori! L'equipaggio attendeva col cuore in gola il boato dell'esplosione. È uno schifo! Che cosa? I rumori, il siluro, tutto. Tutto l'ho fatto tanto benino. Innanzitutto, durante tutto il dialogo si deve sentire lo sciabordio dell'acqua. Ma no, le pause erano per prendere fiato. E poi l'uscita del siluro deve essere rapida, precisa. Vede, dottore, io ho fatto il bersagliere, non il marinaio. Non conosco il rumore dell'uscita del siluro. Ma lo faccia sentire lei. Io sono il regista, lei è il rumorista. Riproviamo. Eh sì, il rumorista, un lavoro che insomma, direi è molto cambiato negli anni. Comunque la carriera di Mario Riva nel mondo dello spettacolo inizia così, perché lui si presenta alla Fono Roma, vuol fare il doppiatore, viene tradito da un marcatissimo accento romano, viene declassato al rumorista, che era quel personaggio che durante le registrazioni dei radiodrammi si occupava di provocare i rumori dell'ambiente. Però intanto hai messo un piede nel mondo dello spettacolo, così può capitare che la fortuna ti dia una mano, una sera manca un attore e per lui arriva il debutto in un programma radiofonico. Siamo nel 37, lui supera un provino alla Eir, inizia la sua carriera alla radio, sono anni in cui la TV non c'è ancora. Lui fa l'attore, il presentatore, la paga è di 27 lire al giorno, insomma sono gli anni della gavetta. Lui accetta questa situazione anche perché in famiglia è stato educato all'umiltà, al rispetto delle regole. Poi durante il periodo del militare lui aveva indossato il cappello del bersagliere e se c'è una cosa che ha imparato bene è quella di obbedire agli ordini, anche magari quando alla fine della giornata quello che ti rimane è solo molta fame. E passa solo un anno prima che qualcuno si accorga di lui, del suo talento naturale, della sua simpatia, della sua capacità di parlare con sicurezza davanti a un microfono. Così viene assunto al Teatro Nuovo di Roma. Questa volta farà l'attore e la paga passerà da 27 a 350 lire al giorno, che comincia a diventare una bella somma. E in quel modo Mario Riva entra in contatto col mondo della rivista, lavora con Aveninchi, con Rossano Brazzi, con Totò, piccole parti, però intanto impara a cantare, a recitare, a stare sul palcoscenico con grande sicurezza. Buonasera signore, buonasera signori, così lui esordisce prima di presentare gli ospiti degli spettacoli. E poi però arriva la guerra, lui non combatte, lavora per organizzare quegli spettacoli che aiutano la gente, diciamo, a recuperare un po' di morale. Lo abbiamo detto, sono gli anni della gavetta, però anche della grande esperienza. Siamo vicini al grande salto, e il salto è rappresentato, come spesso accade nella vita, da un incontro, l'incontro con un altro attore di cinema e di rivista che si chiama Riccardo Billi. Riccardo, vogliamo raccontare a questi signori com'è che ci siamo incontrati? Ci incontrammo nel famoso e storico incontro di Monza. Fu di Natale, ti ricordi? C'era la neve alta così. Che freddo. Io fui inviato a Monza dal noto impresario teatrale Luigi Ivaldi a rinforzare la compagnia di Riccardo Billi. E io fui inviato a Monza dal noto impresario Ivaldi a rinforzare la compagnia di Riva. Se non che Riva non aveva nessuna compagnia. E io non avevo nessuno spettacolo. Insomma, Riccardo Billi e Mario Riva uniscono le forze, ottengono un successo incredibile, adattando per il teatro la trasmissione radiofonica La Bisarca di Garinei e Giovannini, un successo che li porta a diventare una delle coppie più richieste dello spettacolo italiano, soprattutto nel settore comico. E questo apre le porte ai due a nuovi spettacoli teatrali e alla grande novità del 1954, la televisione. Beh, la televisione italiana è molto diversa da quella di oggi. Intanto c'è un unico canale, le trasmissioni sono ancora poche, c'è Sette Note, c'è la Domenica Sportiva. Considerate che un televisore in quegli anni costa quasi quanto un'automobile, quindi pochissimi se lo possono permettere. Però la televisione piace, la gente comincia a organizzarsi, va nei bar o a casa dei fortunati possessori di uno dei primi 80.000 televisori presenti in Italia e va a vedere i nuovi programmi che la Rai produce. E la televisione in qualche modo segna il destino, compatta un paese, perché la gente grazie alla TV si informa, c'era il maestro Manzi che insegnava l'italiano, la gente impara, ma soprattutto la gente comincia a trovare un nuovo tipo di divertimento e infatti cominciano le trasmissioni di puro intrattenimento. Una di queste si chiama 200 al secondo e viene affidata proprio a Billi e Riva, la coppia comica del momento. Come spesso accade all'epoca, è un adattamento di un programma americano, Beat the Clock, adesso si chiamano Format, allora insomma si copiavano, c'erano ancora le leggi che tutelavano le idee. Questo Beat the Clock era un programma in cui i concorrenti guadagnavano soldi, quanti secondi riuscivano a sopravvivere incolumi ad alcune prove, cioè i soldi erano direttamente proporzionali ai secondi che risparmiavi, diciamo così. Abbiamo il gioco in cui un concorrente deve schiacciare dei bottoni e solo uno di questi aziona un pugno che spinge il concorrente in piscina, e altri giochi diversi con i concorrenti che vengono sottoposti a penitenze in caso di errore, tutto però orchestrato dai tempi comici di Billi e Riva, che diventeranno gli antesignani di altre grandi coppie comiche della televisione. Ci viene in mente subito la coppia Tognazzi e Vianello, naturalmente. Ma insomma, me vuoi lasciar perdere, sì o no? Ma che fa? Studio la chitarra per accompagnarti a te quando sarà arrivato il momento. Mi piace. E allora dai, avanzo. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. E qui era Riccardo Billi che stava imitando Anna Magnani. La trasmissione ha grande successo, però c'è il controllo della censura. Sono anni delicati, c'è addirittura un'interrogazione parlamentare che considera il programma offensivo per gli italiani, perché la gente, pur di vincere dei premi in denaro, era disposta a sottoporsi a prove umilianti. Io un po' sono d'accordo con questo tipo di legge. Oggi la gente per andare in TV subisce qualsiasi tipo di umiliazione, forse era un segnale che andava raccolto. Comunque, il programma viene sospeso, a rimarcare quanto fosse diversa la televisione di quei tempi. E poi in quegli anni, e molto più di oggi, c'era un'ingerenza pesante della Chiesa Cattolica, quindi c'era una televisione che non tollerava atteggiamenti ambigui e lussuriosi, e per lussurioso si intendeva veramente un ammiccamento, bastava una ballerina con un vestito provocatorio per chiudere un programma. Signore e signori, buonasera. Siamo qua con uno spettacolo forse un po' di nuovo genere per la televisione, ma di genere vecchissimo per il teatro di rivista italiano. Il nostro spettacolo si chiama La Piazzetta ed in questo spazio la vita corre. Su e giù, incessante, senza posa. La Piazzetta è un programma che Mario Riva conduce nel novembre del 56, ancora una volta insieme a Riccardo Billi. È un programma che porta in scena degli sketch divertenti con altri importanti attori che arrivano, Nino Manfredi, Paolo Ferrari, e poi c'è Diana Dei, la donna che ha fatto breccia nel cuore di Mario Riva. È una ballerina molto formosa, come andava di moda all'epoca, capace anche di sfruttare i tempi comici della rivista. E il programma però va in onda solo per 3 puntate e poi accade qualcosa di imprevisto, perché nel cast c'è anche Alba Arnova, una ballerina di origini argentine, già stella degli spettacoli di Garinei e Giovannini. Durante la 3ª puntata del programma c'è un balletto nel quale lei si presenta con un abito nero e una calzamaglia color carne che le copre le gambe. Nel 56 però i colori della TV non si vedono e quindi si ha l'impressione che le sue gambe siano completamente nude. Scandalo! Durante il programma arriva una telefonata direttamente dal presidente della RAI di allora. Il programma viene immediatamente interrotto. È la fine della carriera di questa povera Alba Arnova, che viene licenziata. Per Billi e Riva si prospetta un lungo periodo di allontanamento dagli schermi. Per Riva è un colpo dalla verso il basso che sembra interrompere prematuramente la carriera del conduttore televisivo. Questo colpo mette a dura prova, anzi è una picconata su questa coppia, perché Billy non ne può più della TV e decide di proseguire la sua carriera nel teatro e nel cinema. E Riva rimane da solo, la coppia si scioglie e Mario Riva ha la necessità di trovare un nuovo programma, magari dopo un po' di tempo, insomma deve ripresentarsi al pubblico, vuole un programma che lo riabiliti e che gli consenta di rientrare con i suoi modi garbati, col suo sorriso nelle case degli italiani. Passa un anno e il 7 dicembre 1957 Garinei e Giovannini allestiscono un nuovo programma, perché Garinei e Giovannini erano, come dire, la letteratura della comicità italiana in televisione, e il programma ancora una volta è ispirato a un format, se così si può dire, americano. Name That Tune è un programma musicale, in scena c'è l'orchestra di Gorny Kramer, e però ci vuole un volto familiare per creare appunto questo clima, come avrebbe detto Enrico Manca anni dopo, il presidente della RAI negli anni 80, un clima nazional popolare. La scelta cade su di lui, su Mario Riva. Per lui è un ritorno alla televisione. Il programma si chiamerà Il Musichiere. Sta per nascere uno dei programmi RAI più famosi di tutta la storia della televisione. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Mario Riva, uno dei primi grandi personaggi della televisione italiana, un presentatore dai modi garbati, uno che aveva fatto tanta gavetta nei teatri della rivista, uno capace di cantare, di intrattenere, di divertire, di entrare nelle case degli italiani attraverso la televisione, la novità degli anni 50. Non era un bello come Gassman, non era uno debordante come Walter Chiari, era un personaggio non affascinante fisicamente, che in qualche modo metteva a proprio agio il telespettatore, cioè era come noi, come si suol dire, come loro anzi. Siamo nel dicembre del 57 quando va in onda la prima puntata del Musichiere, questo nuovo programma ideato dai grandi Garinei e Giovannini, un programma con come presentatore Mario Riva. Abbiamoci alle seggiole, coraggio, svegli, eh? Tranquilli, non con un'andatura da parrucchiere, ovvero sia un po' morbida. Via, bello veloce, Sino, eh? Pronti? Avete visto le scarpe di gomma sempre fornite dalla televisione italiana, eh? Pronti, pronti? Via per il primo motivo? Francesco Sino ha suonato per primo. Una voce, una chitarra, un po' che l'una. Molto bene, bravo Francesco Sino, bravo. Via. Il meccanismo del musichiere era semplicissimo: due concorrenti seduti su due sedie a dondolo, un cantante, Nuccia Bongiovanni e Paolo Bacillieri si alternavano, un cantante che intona le prime note di una canzone accompagnato dall'orchestra di un altro mitico, Gorni Kramer, e poi una campana. Appena un concorrente pensava di avere indovinato la canzone, correva verso la campana, suonava la campana, dava la risposta che era il titolo della canzone. Niente di complicato, nessuna prova umiliante a cui sottoporre i concorrenti, appunto per evitare le censure e le critiche avute in precedenza. Insomma, una combinazione perfetta di divertimento e sobrietà, che erano gli obiettivi dei dirigenti della radio televisione italiana, quella che in passato aveva imposto i suoi veti e le sue censure sulle ballerine discinte e sui concorrenti umiliati. Pensate quello che succede oggi ai concorrenti dei telequiz, già tanto che se escono vivi dallo studio. Comunque, bisognava solo sperare a questo punto nel successo del programma. E lì non c'erano i dati d'ascolto perché la rete era unica, c'era l'indice di gradimento. La RAI chiamavano nelle case e se la gente diceva che il programma era piaciuto, saliva l'indice di gradimento. Bene, il programma ha un successo incredibile, diventa un appuntamento fisso per il sabato sera degli italiani che giocano assieme a Mario Riva, guardano il musichiere, provano a indovinare i titoli delle canzoni, assistono alle esibizioni degli attori, dei cantanti che vengono ospitati nella trasmissione. A dirigere la scena c'era lui, Mario Riva, che crea anche un neologismo che diventa una parola comune del nostro vocabolario, perché per introdurre gli ospiti, soprattutto i più grandi, lui diceva: abbiamo qui niente proprio di meno che, e questo è diventata, insomma, una frase che diciamo ancora oggi: niente proprio di meno che Raff Ballone. Anthony Quinn. Benvenuto, benvenuto. Vittorio Desidera. Gino Bartali e Fausto Coppi. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto al musichiere. Niente proprio di meno che Jack Pala. Benvenuto, benvenuto. Amedeo Lazzari. In questo montaggio avete sentito che gente circolava al musichiere: Anthony Quinn, Jack Palance, Louis Armstrong, Jane Russell, De Sica, Nazari e poi Coppi e Bartali, che diedero vita a un siparietto clamoroso che credo tutti abbiano visto almeno una volta in televisione. Coppi e Bartali che cantano al musichiere. Il programma va in onda ininterrottamente dal 7 dicembre del 57 al 7 maggio del 60. La sigla della trasmissione è un'altra canzone che diventa mitica, entra nell'immaginario collettivo degli italiani. Domenica è sempre domenica, che faceva parte della commedia musicale Un paio d'ali, grazie a questa trasmissione diventa una canzone che conoscono tutti. È un trionfo, la gente riempie i bar per seguire il programma, il musichiere diventa un fenomeno di costume, in edicola esce una rivista con lo stesso nome del programma, il primo esempio di un'operazione editoriale che si collega a un programma televisivo. E poi ci sono i personaggi, le occasioni che cambiano la vita. C'è per esempio la storia di Spartaco Ditri, che è un cameriere di una trattoria romana che rimane campione in carica per 15 settimane, diventa un eroe popolare. Walter Molino, che era il disegnatore della Domenica del Corriere, gli dedica una copertina. Ditri vince 8 milioni, che in quegli anni sono veramente un patrimonio. Cambia vita, diventa proprietario di un paio di ristoranti, mettendo in scena una meravigliosa favola italiana. E poi ci sono le gag di Mario Riva, soprattutto quelle con gli ospiti stranieri, perché lui non conosce una parola d'inglese e quindi fa le interviste a modo suo. C'è un altro filmato famosissimo che arriva Gary Cooper che si fuma in diretta una sigaretta in compagnia di Mario Riva, è solo la mimica dei due che si guardano fumando e diventa spettacolo. Thank you. Voglio vedere chi è che c'ha il coraggio di dire che qua non si fuma. Vigili! Vigili, noi fumiamo! But, nobody is smoking here, is it permissible? No, no, non sarebbe possibile. No? È vietato. No, no, no, no! No, lei può fumare. Lei, you smoking, smoking. You too, huh? Good. Ah, io sono amico di Gary Cooper, a me non mi dice niente nessuno, per l'amor di Dio. I am Gary Cooper friend. Well, that isn't right. È il musichiere, l'antesignano di tutti i programmi musicali dei tempi moderni. Si arriva fino al karaoke, a Sarabanda, ma tutto è nato da lì. La musica in televisione nasce con il musichiere, entra a far parte della cultura italiana il programma. Siamo negli anni del boom economico, c'è anche un film, Domenica è sempre domenica, in cui recita un grande, come sempre, Alberto Sordi. Permette, signor Iva? Ingegnere Alberto Carboni. Ah, niente proprio di me. Dai! E adesso che gli ho fatto a questo? Che è successo, ingegnere? È fantastico! Perché? Che è successo? Ingegnere? Niente proprio di meno, dice. E va bene, lo diciamo sempre, niente proprio di meno. Signor Iva, non mi guardi con quella faccia. Ma con quale faccia la devo guardare? Ingegnere! Tale quale come sul video. Su, si componga, venga qua, ingegnere. Su, su, stia tranquillo. Ingegnere, non è niente, su. È fantastico, io non esisto, signor Iva. È la prima non impressione, poi passa, ingegnere. Ingegnere, su, lei è al corrente della cosa, no? Sì, l'amico Togliani mi ha detto, vai dal signor Iva e tutto è sistemato. Lei assume il ruolo di concorrente di riserva, è chiaro? Di riserva del signore che è svenuto. Esatto. Allora posso stare tranquillo. Ti allora tranquillo. Grazie infinite ai miei rispetti. Prego, ingegnere. Dai! E poi nasce un festival, il festival del musichiere. Quindi è il musichiere che scende in mezzo alla strada, diciamo, la gente comune che invia le proprie poesie che vengono trasformate in canzoni, vengono eseguite in una serata speciale. La serata speciale si dovrà tenere all'Arena di Verona e naturalmente il presentatore è lui, Mario Riva. Sta per tenersi la seconda edizione del festival, siamo nell'agosto del 1960, purtroppo il destino sta aspettando al varco il nostro protagonista, Mario Riva. Il falco e il gabbiano. Il 7 maggio 1960 il musichiere è andato definitivamente in pensione, sono stati 3 anni intensi. Mario Riva, che è il protagonista della nostra puntata di oggi, ha raggiunto intanto un livello di popolarità altissimo. Nel mese di agosto si svolge il Festival del Musichiere e poi c'è la serata finale e allora come oggi una delle location più appetibili del paese era l'Arena di Verona e quindi la serata finale si terrà lì. Ci sono molti ospiti, è un vero e proprio evento, bisogna allestire il set nei giorni immediatamente successivi alla fine delle repliche dell'opera perché all'Arena era andata in onda I Pagliacci di Leoncavallo e a questo punto si comincia a lavorare e dobbiamo sentire il racconto di Antonello Riva, figlio di Mario Riva, da uno speciale di Rai Storia. Quella malaugurata sera, durante le prove, alcuni caroselli, delle giostrine che erano state lasciate lì all'Arena di Verona dallo spettacolo precedente che era I Pagliacci, avevano degli specchietti, quindi girando questi caroselli, queste giostrine, davano fastidio alle telecamere, come si dice in gergo, sparavano in macchina. E quindi queste giostrine si tolsero con grande rapidità, come si fa sempre a ridosso delle dirette. Ovviamente queste giostrine che erano montate su un praticabile di legno, tolte, lasciarono un vuoto, un buco, ciascuna delle due. E questo buco, per rapidità, per far presto, fu coperto con tela di sacco anziché con assi di legno. Una decisione sciagurata. Nei momenti precedenti all'inizio della serata vengono abbassate le luci anche perché quei giorni nel cielo c'è lo Sputnik e la gente si illude di poterlo veder passare. Anche la coreografia iniziale deve rifarsi a questo evento. Mario Riva deve raggiungere la parte più alta delle gradinate dell'arena e da lì dare il via alla serata facendo accendere degli accendini a tutto il pubblico, anche una coreografia, come dire, che precorre i tempi, no? Tutto questo per trasformare l'arena in un cielo stellato, sono dei momenti concitati, come sempre, prima di una diretta tutto sta avvenendo in penombra. Mario Riva non si accorge che quei teli non sono un pavimento, sono solo un panno teso, sospeso nel vuoto, insomma una vera e propria trappola. E così accade quello che nessuno si sarebbe aspettato. Mario Riva, che cammina su quei teli provvisori, cade sulle gradinate sottostanti, fa un volo di diversi metri. Proprio il destino che ci ha messo veramente il diavolo nella coda ha voluto che in quel momento si spegne la luce. C'erano gli accendini della gente e quindi si vedevano questa meravigliosa scena, scenografia naturale del pubblico che aveva acceso. E lui, ed evidentemente Mario Riva ha perso l'orientamento. Poi ho sentito un frastuono, un po' di gente che parlava, che chiacchierava, che diceva: oddio, oddio, che è successo, che è successo? Mario Riva è caduto, Mario Riva è caduto. E allora non sapevano che fare. Allora a un certo punto Giovannini dice: chi presenta lo spettacolo? Si sono guardati in faccia e hanno detto: beh, mandiamola a Martino, che non deve cantare. Io non cantavo la canzone che era entrata in finale. Miranda Martino è una cantante molto famosa, un'attrice che in quel momento è abbastanza, come dire, agli esordi, si trova catapultata al centro dell'attenzione, deve presentare. Intanto Mario Riva viene portato all'ospedale, ha diverse fratture, la situazione appare molto preoccupante, però lui è cosciente e ci sono delle foto che lo ritraggono dopo l'accaduto con il volto bloccato in una smorfia di dolore, un dramma che tutto il pubblico dell'arena sta vivendo con apprensione. Poi le telecamere si accendono e, con la sorpresa dei telespettatori, entra in scena Miranda Martino. Lo spettacolo deve andare avanti. I giornali cominciano a seguire con apprensione l'andamento clinico di Mario Riva, che è a Verona in ospedale. Inizialmente sembra non grave, poi subentra una polmonite da trauma che mette tutto in discussione e la situazione si aggrava. È gravissimo. Lotta tra la vita e la morte, questi sono alcuni dei titoli dei giornali dell'epoca. Accanto a lui c'è Diana Day, che lo ha sempre accompagnato per tutta la sua vita. 11 giorni dopo l'incidente, il 1 settembre 1960, Mario Riva muore a solo 47 anni. Il cuore e il fisico non hanno retto alle conseguenze di quella caduta assurda e rovinosa. Il funerale viene celebrato a Roma, nella Basilica del Sacro Cuore di Piazza Euclide. Ci sono 250.000 persone, ci sono tutti i grandi nomi dello spettacolo: Tognazzi, Fabrizi, Gino Cervi, ci sono i bersaglieri che porteranno a spalla la bara di Mario Riva, quei bersaglieri di cui lui è sempre andato molto fiero. Due ali di folla accompagnano l'ultimo viaggio di Mario Riva. C'è un'inchiesta per appurare le responsabilità, naturalmente la RAI ribalta le colpe sul comune di Verona e il comune dà la colpa all'impresario che ha allestito lo spettacolo. C'è un valzer di responsabilità che non porta a nulla e che fa sì che tutto venga insabbiato, e anche la RAI fa la sua parte, perché i telegiornali rimangono vaghi, non si sbilanciano, non c'è una voce di dissenso. In quei tempi, oggi ci sarebbe stato molto dibattito attorno a questo caso. Allora, con il tempo tutto passa, i filmati scompaiono dagli archivi RAI e Mario Riva diventa un nome scomodo da pronunciare e da far rivedere per molti anni. È così, un alone di mistero avvolge il ricordo del primo grande personaggio della televisione italiana. Complimenti e auguri. Certo che a questa adesso chi lo muove da là non lo so. Vai, rimani qua, bello, tranquillo. Ti faccio tanti auguri per la tua vita, perché veramente te li meriti. Sei un ragazzino veramente svelto. E a voi tutti non posso far altro che dire: arrivederci a sabato prossimo. Ci sono 160.000 lire nella cassaforte che vi aspettano. E ricordate, per tutti coloro che non verranno qua, che dopo il sabato, domenica è sempre domenica. Ma Mario Riva, con la sua semplicità, la sua simpatia, quell'accento romano mai nascosto, anzi ostentato, con un leggero strabismo che lui definiva strabismo di Venere, tanti ingredienti che lo hanno reso un uomo normale, vicino alla gente, amato dal pubblico. Era decisamente italiano, ci assomigliava. Mario Riva era l'emblema e lo specchio di quell'Italia di quegli anni, e i suoi colpi d'ala hanno significato un periodo fondamentale per la televisione italiana e per il nostro paese. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalatevi a mail al falco@radio24.it se anche voi conoscete qualcosa che merita di essere raccontato, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social Facebook, Instagram, Twitter, sui nostri, insomma se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.